Ci fa piacere essere riusciti durante le ultime settimane a raccogliere delle testimonianze da confluire in un'unica esperienza, un evento significativo che in questo caso è la Fiera Play di Modena, che avrà luogo il 26 e il 27 marzo. Si tratta dopo tutto di scrivere una storia, che è un problema che coinvolge un po' tutte le discipline e l'antropologia compresa, con tutti i problemi che si incontrano nella stesura di un'etnografia. Della nostra indagine non si può parlare di una vera e propria etnografia, ma di una perlustrazione di una particolare circostanza e di alcuni dei personaggi che la vivono in prima persona. Con l'intervista a Luca Cerrato, che vi proponiamo in questa puntata, chiudiamo idealmente un ciclo che è cominciato con l'intervista a Nino Vessella, passando per quella con Andrea Ligabue, per giungere a oggi con Luca, con il quale parliamo di Play Modena e della difficoltà nel raccontare il gioco, che per quanto riguarda la radio rappresenta una vera e propria sfida. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla quinta puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Vi presentiamo oggi Luca Cerrato, appassionato di giochi e ideatore del Fogliaccio degli Astratti, un foglio web nel quale si parla di giochi astratti e che si rivolge a ogni genere di pubblico. Per conoscere meglio Luca, gli abbiamo chiesto di raccontarci qual è il suo background ludico, nella convinzione che ciascun appassionato abbia una storia particolare che attraversa diverse fasi e diverse passioni, uniche nella loro combinazione e nei loro esiti. Allora, la mia vita ludica, io ho iniziato credo prestissimo, 5 anni, a giocare con il filetto alla tela con mio nonno, poi sono passato la dama, poi gli scacchi, e per molto tempo mi ero fermato lì, perché comunque l'informazione in Italia è quella, sì. Ah sì, Monopoli, Risico, e sto per parecchi anni. Poi ho scoperto un libro, presentava giochi da tavolo, giochi di carte, e lì ho cominciato a approfondire. Poi ho scoperto, è lunga, la sto tagliando, sì. I giochi di scacchi, l'associazione AISE, scacchi, sì. Giocatori per scacchi eterodossi, quindi sì. Variante di scacchi, sì. Dopodiché è arrivato internet e lì è esploso. Quindi nasci comunque come scacchista, diciamo, principalmente. Sì, come giocatore astratto, preferirei, okay. Dire, non tanto scacchista. Bim bum bale giù! Luca è un appassionato di giochi astratti. Il gioco astratto è un tipo particolare di gioco. Gli scacchi sono un gioco astratto, la dama è un gioco astratto, così anche il backgammon, il pachisi e i mancala. Abbiamo cercato con Luca di dare una definizione di questi giochi per darvi un'idea delle caratteristiche che li contraddistinguono. Il gioco astratto è un gioco che non ha un'ambientazione. Adesso bisognerebbe dire ambientazione. Ci sono esempi più semplici. Il Monopoly è una, tra virgolette, una simulazione di un mercato finanziario. Giochi astratti non hanno questa ambientazione. Sì, tu potrai dirmi gli scacchi simulano una guerra, sì. Ma molto molto, ma più che simulare forse livello. Una metafora, ecco. Sì, giusto, bravissimo. È una metafora di una guerra. L'ambientazione non esiste nei giochi astratti. Dopodiché, la parte fondamentale di un gioco astratto è la sua semplicità. Cioè, un gioco astratto lo impari, io dico sempre, in 5 minuti. Vedi gli scacchi, la dama, non ci vuole 3, eccetto il bao. Sì, che ci vuole un po' di più. Adesso, infatti ti guardavo perché... Eccetto il bao, ma diciamo il 90% dei giochi astratti si impara in 5 minuti. Sì. Tipo l'esempio più classico che porto è il Go. Il Go, sì. È un gioco orientale, si impara in 5 minuti, ma come si dice ci vuole una vita per diventare maestro. A questo proposito, anche un po' per chiudere questo cappello sui giochi astratti, potremmo dire che il gioco astratto si definisce tale perché forse più che basarsi su degli elementi materiali di gioco, si basano su degli elementi mentali come la logica, il calcolo, sì. Di volta in volta... Diciamo così, non so, con Vessella si diceva che il Bao è aritmetico, sì. Più che matematico, quindi va forse a pizzicare delle corde diverse, ma che abbiamo tutti dentro, insomma, sì. Giochi di ingegno. I giochi di ingegno, io ho una definizione che il gioco astratto è un gioco, quello che faccio, che presento io sul Fogliaccio degli Astratti, è un gioco deterministico, nel senso che la componente fortuna c'è se non c'è, scusa, la componente non c'è, oppure se c'è è controllata dal giocatore, tipo, sì. Il gioco del backgammon, a prima vista sembra un gioco di fortuna, sì. Ma non lo è, usando usando il dado del raddoppio, facendo più partite, sì. Diventa un gioco di abilità, sì. Gli esperti mi spiegavano che se io faccio una partita secca col campione del mondo posso vincerla la partita, sì. Secca, ma se faccio una partita a punti, sì. Ai 6, ai 9 punti, la perdo come perdessi una partita a scacchi col campione del mondo. Ed è per questo, se ho capito bene, che il backgammon si gioca a round e non a partita secca. No, partita secca, la fortuna può essere decisiva. Radio 110, Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Stiamo parlando con Luca Cerrato, appassionato e promotore di giochi astratti e curatore del foglio web Il Fogliaccio degli Astratti. Gli abbiamo chiesto di raccontare ai nostri microfoni cos'è il fogliaccio e qual è la sua storia. Nel parlarci del fogliaccio siamo incappati in un tema interessante, e cioè quello del racconto, che è un po' il filo conduttore di questa puntata. Raccontare il gioco infatti non è una cosa facile, e in questo senso somiglia un po' a tutte quelle pratiche della cultura umana, come il teatro, il rito, il mito, tutte quelle realizzazioni nella vita dell'uomo che celano in sé anche una rappresentazione simbolica della realtà che ci circonda e che spesso fuggono all'interpretazione letterale. Il più delle volte, per tutte queste esperienze, sembra davvero che sia più facile viverle che raccontarle, e così anche un gioco, per lo più, è più facile da mostrare, da giocare, che da raccontare. Sentiamo cosa ha da dirci Luca a proposito nel prossimo frammento della nostra intervista. Il Fogliaccio degli Astratti nasce molti anni fa, intorno al 2003-2004, e inizialmente era un semplice foglio su un news group e voleva semplicemente informare gli altri giocatori dei giochi astratti tradizionali. Poi man mano è evoluto, è passato in una forma HTML, quindi con, come dico io, con colori e immagini, perché comunque le immagini sono molto importanti per spiegare un gioco, perché è difficile. A una radio oltretutto era impossibile, e anche scrivendo è abbastanza noioso leggere un regolamento di giochi, io stesso mi annoio. Aggiungendo delle figure la cosa va più semplice, almeno io credo. Dopodiché il fogliaccio si è evoluto, ha cominciato a vedere oltre i giochi astratti tradizionali, quelli moderni, e poi passato ai giochi da tavolo, quelli moderni, board game o giochi alla tedesca, trattandoli da diversi punti di vista. Per certi versi vuole essere approfondito il fogliaccio degli astratti su certi argomenti, altri argomenti devono essere un po' più leggeri, perché vorrei che anche il pubblico che capita per caso sul mio sito riesca a capire, o comunque meglio a giocare, quello che io propongo. Quindi la mia tendenza è proporre dei regolamenti, dei giochi che possono essere facilmente giocabili, semplicemente o con una scacchiera o damiera, più altre cose che i lettori dovranno procurarsi. Questo in più, cerco di affrontare l'argomento giochi da un punto di vista del regolamento, analizzando i regolamenti dei giochi, soprattutto quelli moderni, che hanno delle similitudini e delle differenze. La rivista si rivolge a tutti, a curiosi e specialisti, cioè gente che ne sa di giochi. Come rispondere? Io non ho scelto di mettere un contatore di download sulla rivista, quindi è una mia scelta personale. Io vedo che risponde bene sia dalla gente che mi parla e sia di chi vuole intervenire sulla rivista, nel senso che vuole scrivere argomenti, mi propone degli argomenti. Quindi c'è un popolo attivo. Sì, non sono tantissimi, per carità, però è una soddisfazione. Sì, è una soddisfazione quello che ricevo. Bim bum bale giù. Siamo ritornati nello studio di Radio 110. Questa è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Stiamo parlando con Luca Cerrato, appassionato e promotore di giochi astratti. Luca vive a Torino ed è venuto a trovarci nel nostro studio in Via Verdi 8 per raccontarci delle sue esperienze di gioco e delle sue attività. Con il prossimo frammento entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Luca Cerrato infatti sarà presente alla Fiera Play Modena con una postazione dedicata al gioco astratto, in compagnia di Nino Vessella, che abbiamo intervistato nella terza puntata del nostro programma e che ci ha parlato del BAO e dei giochi del Mancala più in generale. Abbiamo chiesto a Luca quali sono gli obiettivi per questa partecipazione alla Fiera Play. Nino Vessella presenterà il BAO, perché lui è bravissimo, è la sua materia e ha molta pazienza. Come detto, spiegare il BAO ci vuole pazienza. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un ritorno di giocatori, prima di tutto. Questo sarebbe il nostro scopo. È difficile, però ci piacerebbe diffondere quella che chiamano la cultura del gioco in Italia e chi passa per Modena. Cioè fargli scoprire che non esiste solo la tombola, non esiste solo il bingo o i giochi più classici, ma esistono giochi tradizionali, come ha spiegato meglio Nino, africani, che hanno una certa dignità, direi. Parlando con Luca, il tema del racconto del gioco è tornato di prepotenza anche parlando di Play Modena. In questo spezzone di intervista abbiamo parlato dell'approccio al pubblico e delle sue eventuali reazioni alla vista di giochi che possono essere visti come nuovi, diversi oppure troppo difficili. Semplicemente Nino Stella esplora il BAO, io espongo anche altri giochi astratti, insieme ad altra gente, altri collaboratori, si piazzano sul tavolo, la gente passa, sì, gira il volto verso di noi, diciamo, mica volete giocare, perché sì, volete giocare? Allora, a questa domanda ci sono due risposte. La gente si avvicina e chiede che cos'è, perché sì, vedranno dei tavolieri strani, delle pedine, non so, con degli ideogrammi, se ci sono i scacchi cinesi o lo shogi, oppure delle pedine colorate disposte su un tavoliere, che sia quadrato o esagonale. E lì, curiosi, si comincia a spiegare e si comincia a giocare. La seconda tipologia di risposta è la persona spaventata che scappa via, dicendo no, non ho tempo, oppure non ho voglia di pensare. Mm. E sono queste le due tipologie. Con i secondi come ci comportiamo? Semplicemente li lasciamo andare via, perché io non credo che prendere una persona, obbligarla a giocare, abbia un ritorno, tra virgolette, di immagine per il settore ludico. Mm. Cioè, se una persona deve sentirsi libera, il gioco è una, sì, cosa volontaria, un'attività volontaria, non è forzata, obbligatoria. No, per fortuna di no. Si dice due parole, si cerca di, tra virgolette, convincere raccontandogli la storia del gioco, sì, ma veramente due parole. Sì. Capitano persone che inizialmente vogliono andare via, che dicono no, non gioco, poi se riesco a convincerle ritornano. Bim bum bale giù! Bim bum bale giù, Radio 110, quinta puntata. Parliamo di gioco astratto e Play Modena con Luca Cerrato. Parlando di gioco, di racconto del gioco, siamo giunti a considerare le reazioni del pubblico di fronte a giochi nuovi e sconosciuti e agli eventuali scenari che si possono presentare. A questo proposito, il tema del racconto, il filo rosso che in qualche modo unisce tutti gli argomenti della nostra conversazione, è tornato prepotentemente in primo piano. In questo frammento Luca ci parla di un aspetto che ci interessa particolarmente, e cioè quello dei regolamenti dei giochi e della loro effettiva funzione. Come avete sentito negli spezzoni precedenti, i regolamenti di gioco sono spesso difficili da raccontare, a volte persino noiosi da leggere in prima persona, senza un ausilio visivo oppure un approccio diretto, giochi alla mano. Questo apre una tematica interessante che potremmo definire del gioco di secondo livello e che in realtà ha a che fare con i modi con i quali le persone interagiscono con la cultura nella loro vita quotidiana e sottolineano quella caratteristica di plasticità propria della cultura, di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata. La cultura non è soltanto quella che troviamo nei musei, nella letteratura, a scuola, attraverso i mezzi di comunicazione di massa. La cultura è in primo luogo il modo con il quale ci relazioniamo con le cose che ci stanno intorno. Per quanto riguarda i giochi, per esempio, può trattarsi del rapporto di un giocatore con le regole stesse del gioco. Sentiamo Luca cosa ha da dirci a riguardo. Soprattutto quando porti un gioco nuovo, anche se il regolamento è scritto bene, dici, ah, questo caso, questo non mi è mai capitato, andiamo a vedere il regolamento. Capita, sì, è la normalità, cioè sì, ti capita di non sapere proprio il particolare della regola. Nei giochi astratti è un po' meno difficile che capita questa casistica, essendo un regolamento semplice, sì, di solito cioè, si cava, sì, oppure l'esperienza, si inventa la regola, può capitare che io qualche volta mi sono inventato la regola, però sapevo che comunque il gioco continuava a girare come andare liscio come l'olio il gioco, il regolamento, sì, non si bloccava. Molto questo bello, lo fai questo con l'esperienza. Sì. L'esempio più classico è quello che hai visto con Nino, con la famiglia di Mancala. Sì. Molto probabilmente qualche migliaio di anni fa si è partito con un regolamento, poi si è diffusa di tribù in tribù e siamo arrivati al Bao, siamo arrivati alla Uele, siamo arrivati ad altri N giochi sparsi nel mondo, sì, dall'India, dall'Africa, al Sud America, è vero, all'Europa orientale. Con questo argomento ci sono anche l'enorme mole delle varianti degli scacchi, non sono le aperture. Quando io parlo di varianti, molti mi intendono le aperture degli scacchi tradizionali, sì, no, sono proprio i regolamenti differenti di scacchi, ce ne sono migliaia, basta andare su internet e mettere chess variant. Sono terrorizzato all'idea, sono terrorizzato al giorno in cui mi metterò in testa di parlare degli scacchi, ci sto girando attorno, ma prima o poi dobbiamo caderci. Bim bum bale giù! Questo è Bim bum bale giù, così gioca il mondo, su Radio 110. Parlando con Luca Cerrato di regole di gioco e della possibilità di cambiarle a seconda della circostanza, secondo quello che si impara dalle esperienze pregresse, si può anche fare un altro tipo di considerazione, e cioè che il racconto non è un'entità autonoma, esterna alla realtà. Il racconto, quando si realizza, entra in un rapporto dialettico con la realtà, e così, come è capitato a noi nelle precedenti puntate, in cui vi abbiamo parlato di giochi dal mondo, e come ci racconta Luca nella sua esperienza di appassionato di giochi astratti, può capitare che per rendere efficiente e comprensibile un racconto si intervenga sulla realtà stessa delle cose, magari semplificando, come può capitare a un programma radiofonico che si pone l'obiettivo anche un po' utopico di raccontare le regole di un gioco nuovo a un pubblico inesperto, oppure trasformando il gioco, quando a maneggiare i suoi contenuti c'è un giocatore esperto che conosce i rischi e i benefici che si possono trarre dalla trasformazione di una regola. E così il racconto di un gioco diventa anche un'operazione creativa che trasforma la realtà effettiva delle cose. Nascono giochi nuovi che si diffondono in tutto il mondo e che si trasformano in altrettante varianti, come è capitato ai Mancala oppure agli scacchi. Giungendo al termine della nostra intervista, siamo tornati al discorso su Play, ma soprattutto sul gioco tradizionale di derivazione etnica, usando un termine poco preciso ma entrato nell'uso, utilizzato per indicare tutte le culture altre rispetto a quella occidentale, europea e statunitense, di cui noi in Italia condividiamo alcuni aspetti. Abbiamo chiesto a Luca le modalità con cui questi giochi stanno entrando in Italia, se avremo la possibilità di confrontarci con giocatori provenienti da altre culture nel futuro prossimo e di imparare direttamente dalla loro esperienza nuovi giochi o altri modi di giocare ai giochi che abbiamo imparato attraverso canali diversi dall'interazione faccia a faccia. Luca ci ha raccontato la sua esperienza personale sull'argomento. Io non ho mai visto giocare ai Mancala, a Bao, Vita Mia dal vivo, però ho delle esperienze in diretta, nel senso che quando faccio il lavoro di divulgatore ludico mi capitano persone provenienti dal Nord Africa, Marocco oppure dal Ghana e altri paesi africani, in cui dove mi spiegano il gioco, come giocavano loro. Ad esempio io spiego di solito la Well è un regolamento semplice, a differenza dal Bao, in 5 minuti imparano a giocarlo, sì. E mi capita spesso che mi arriva la signora marocchina che mi dice: sì, quello solo giocavo da bambino, non lo giocavo sul tavoliere in legno, ma noi scavavamo le buche per terra, questo è capitato, chiaro. Oppure mi arrivano dei signori, mi ricordo una gioca Torino, che è un'amministrazione ludica che si tiene qua a Torino, dei ragazzi che studiavano medicina mi hanno spiegato il loro Mancala. Poi, all'ultimo gioca Torino addirittura mi è capitata una famiglia che ha cominciato a giocare su una mia tavola, io non ho assolutamente capito di cosa stavano giocando. Loro davano per scontato che io sapessi quelle regole, ma non saprei riprodurre quel gioco. Bim bum bale giù! Quest'ultimo bellissimo racconto di Luca, di incontri con realtà ludiche diverse dalla nostra, siamo arrivati al momento conclusivo della quinta puntata di Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo, su Radio 110, in onda dal Rettorato dell'Università degli Studi di Torino in Via Verdi 8. Luca è immerso nel racconto del gioco, come divulgatore con il suo fogliaccio degli astratti, il foglio web di cui è curatore, come promotore di giochi attraverso il racconto delle regole e il cosiddetto gioco giocato, come testimone di incontri casuali con giocatori provenienti da altre parti del mondo. Anche per Luca il futuro però non è così roseo quando si parla di confronto e di diffusione a livello popolare del gioco tradizionale di culture diverse dalla nostra. Probabilmente non esistono gli spazi, sicuramente le persone che vengono in Italia dagli altri continenti devono affrontare problemi che superano il gioco come urgenza. Quali che siano le ragioni, il confronto sul gioco tradizionale è ancora in una fase embrionale e non sappiamo dire se un giorno si diffonderà più ampiamente nel nostro paese. Raccogliamo l'esperienza di Luca come una preziosa testimonianza del mondo del gioco tratto in Italia ai giorni nostri, in attesa di eventuali sviluppi, e riflettiamo sul modo in cui possiamo parlare di giochi al pubblico più ampio possibile, sviluppando linguaggi diversi, constatando che il gioco, come tutte le pratiche della quotidianità, ha il suo momento fondamentale nell'esperienza diretta, insostituibile per comprendere appieno la sua natura, come ci hanno raccontato anche Nino Vessel e Andrea Ligabue nelle precedenti interviste. L'esperienza del gioco è anche il fulcro di un evento come la Fiera Play, che si svolgerà il 26 e il 27 marzo a Modena, della quale abbiamo parlato nelle ultime puntate, e alla quale vi invitiamo a partecipare se vi hanno incuriosito le testimonianze che abbiamo raccolto nel nostro programma. Il tempo a nostra disposizione è finito. Ringraziamo Luca Cerrato per la sua gentile partecipazione, in attesa di nuove interessanti collaborazioni. Ringraziamo anche Carlo in regia e vi ricordiamo i contatti: www.110.unito.it e cosigiocalmondo.blogspot.com per riascoltare le puntate e per inviarci commenti, domande e spunti da trattare nelle prossime. Per oggi è tutto. Io sono Francesco, l'appuntamento con Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. bomba le giù, così gioca il mondo.